Last Beach Show. Ciao a tutti e bentornati a Last Beach Show. Quest'oggi parleremo di La Vie di DMC. Cette chanson est dédiée à toi, maman. Capitolo numero uno, le origini. L'être la plus chère de la vie. L'être la plus chère. Cette terre, et tu m'as soutenu malgré mes caprices, et tout cela parce que je suis ton fils. Et quand tu penses aux 9 mois de souffrance, tu ne veux pas. Vi sono paesi in cui è possibile sposare più di una donna, soprattutto nazioni islamiche. Tra questi paesi vi è anche la Costa d'Avorio, stato di origine di DMC, l'artista di cui andiamo a parlare oggi. Vi sono persone che hanno 2 mogli, 3 mogli, 5 mogli, a seconda della ricchezza degli individui, della possibilità di mantenere queste mogli. Je suis une baleine et tu es mon océan, maman. C'est pour toi que je vis. Però in caso una persona si trasferisca da paesi islamici a paesi come quelli europei, come l'Italia, non è possibile portare tutte e quante le mogli con sé, o almeno farle risultare tali. È così più che comune trovare persone che in caso di emigrazione verso paesi più ricchi debbano lasciare mogli nel paese d'origine, con tutti i problemi che ci possono essere per la prole, per i figli. E così ci sono anche molti ragazzi costretti a dire addio alle proprie madri per poter raggiungere una speranza di vita migliore in un paese, si suppone, migliore. L'abbandono della propria madre per un ragazzo in età giovane è un dramma vero e proprio, ed è anche stato il caso di questo cantante di cui andiamo a parlare quest'oggi. Un cantante sicuramente molto particolare, che racconta della vita, delle sue speranze, del suo futuro, delle sue passioni, delle sue donne, ma anche delle sue emozioni, e tra queste non poteva che mancare la mancanza della figura materna che lo accomuna a molte persone come lui, che lasciano tutto per poter andare incontro al futuro in un paese spesso ostile di cui ancora non sanno nulla. E quindi DMC partì verso un paese ignoto, allora l'Italia, da un aeroporto in Costa d'Avorio, dalla città di Abidjan, con la speranza di poter cantare, di potersi divertire, ma soprattutto di potersi costruire una vita decente. Capitolo numero 2. La vita nella squallida provincia. Vi sono 2 cose che accomunano tutti gli immigrati di origine africana sul suolo italiano. Una è la ghettizzazione e la seconda cosa è il rapporto con la polizia. Va bene. Vediamo che cosa abbiamo qua in mano. Allora, il giorno 25 gennaio 2007, alle ore 23:00, in Seriate, Bergamo, presso gli uffici del comando in intestazione, avanti ai sottoscritti appuntato scelto Piccinelli, Pierluigi e carabiniere navetta Salvatore, è presente la persona in oggetto indicata, alla quale viene contestata, ai sensi dell'articolo 75 del DPR numero 309/90, la detenzione illecita di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina. Silenzio! Silenzio in aula, per favore. Maresciallo, mi porti un bel bicchiere di pastis. A finire la sentenza. Condannato. Che pezzo di merda. Uè, fuck you. Mec la justice raconte des sottises et la police abuse pas du pastis et les MC se consolent en fumant du cannabis à tous ceux qui fument du kiff. Positif, négro, est-ce que tu kiffes? Ouais. Beat automatique, flow informatique, de l'Italie en Afrique masique. Malgré les critiques, mon sang est monté au-delà de l'Atlantique. Bergamo transit, Bergamo trafic, hip-hop music. Ici la vie est dramatique, putain de panique. C'est la loi de la jungle, ciné pour authentique. À tes côtes les flics, toujours du coup des risques pour pouvoir t'en sortir. Je ne sais plus si rire ou pleurer, ma casser ou m'effrayer. Je le sais très bien, espèce de point rien. Tu peux m'empêcher de penser, m'attacher, mes bras et mes pieds. Ainsi que mes yeux, mais tu ne peux jamais m'empêcher des pensées, c'est pas possible et c'est inadmissible. Pourquoi sommes-nous toujours pris possible? Même si est des retours, la flic l'attend au carrefour. Même si est des retours, la maf l'attend au carrefour. Aujourd'hui c'est son tour, il doit payer ses dettes en cours. Écoute ce flow, ce morceau, mes négros du ghetto. Ouais, ouais. Mais la justice raconte des sottises et la police abuse et boit du pastis. Et les MC se consolent en fumant du cannabis. Tous ceux qui fument du kiff. Que pète de merde, merde. Nella città dove DMC visse la maggior parte del suo tempo, il ghetto era chiamato Via Quarenghi, ove un sacco di persone provenienti da culture non italiane condividevano gioie e dolori, rapporti con la polizia e anche tra di loro. Un sacco di casini che non potete immaginare. La mafia cinese, la mafia ivoriana, spacciatori italiani, pusher magrebini, spacciatori di cocaina, spacciatori di fumo. Chi rifiuta di farne parte e chi ne deve far parte. Non certo il modo migliore per venire a contatto con un mondo e con una cultura nuovi. Mentre in un paese, per esempio, come l'Inghilterra, se un immigrato arriva sul suolo nazionale, viene a tutti gli effetti inserito nella società, in Italia purtroppo si rimane spesso ai margini della stessa e quindi per sopravvivere è talvolta necessario fare tantissime cose un po' porche, un po' schifose. Ma non fu questo il caso di DMC, che fattosi un sacco di amici preferì andare nei locali, nelle piccole osterie, nei bar a cantare e a fare un sacco di serate musicali in cui esprimere al meglio il proprio potenziale. DMC non ha mai studiato musica, ma riesce a esprimersi con la voce come un cantante già arrivato, affermato, forte di un timbro unico, riesce ad inventare ritornelli originali ed accattivanti e ad avvicinare a sé un sacco di musicisti e di produttori della zona in cui sta. Ma siccome stiamo in Italia, è molto più facile che queste persone vengano da tutto il mondo fuorché l'Italia, pur essendo sul suolo italiano. E così gli amici di DMC furono senegalesi, ivoriani, albanesi, etiopi, israeliani e, unici tra gli italiani, pure i poliziotti, con cui sicuramente nessun immigrato che si dà l'arte ha un rapporto molto molto piacevole in Italia. Ma tuttavia non sono certo le uniche persone da cui guardarsi le spalle. Capitolo 3. Il produttore israeliano. La prima persona che sicuramente notò le qualità canore musicali di DMC fu il produttore israeliano Jonathan Ruckman. This is the MC meant to be with no NBC. I wreck the envy of the homie. Bounce when I tell you to move. I ain't losing my time. People will be losing their head when I'm done with my rhyme. Fake threats. I thought you know me. MC know me. Always on the road. They set my mind. No time to be shy. Right. Make things work right. Take off. Hold tight. In a position to make a request. I hit jazz. Heavy metal and a whiplash. Till I provoke you for a 10 euro piece of hash. Switching my Rokino for a regular stash of grass. Get up. Pump it up. Swing with the drama. To meditation, we're back in nirvana. Gangsta families spit fire on my karma. Make the royalties go. This is the new old school, made to rule. Still uncool, you play the fool. Still breaking the rules. Start rhyming, start flowing. We gotta get ya going. Dancing on your own. find the dark side of the moon like in a hard-edged tune, coming like a prophecy, honoring Chuck Flav, X and Public Enemy. Coming straight from Tel Aviv to rock the mic, killing me softly, die hard, hard to get, right? It's a dope jam, coming like a bread fan, bringing through the program, hit you like a heck of spam. Little ever have I made to get the right spot, player haters make me jitter and lose the hot shows, ain't walking around like I'm getting dough. Little do you know about the role we go, brain damage, political, analytical, now it's getting lyrical, you know it's getting physical. Y-O-N-I, spinning, making miracles, it's getting me delirious, you know it's getting serious. We need your lead to start the party, for 2003 was the motherfucking key. I said 1, 2, 3, and fuck the police, gray man, make peace, y'all, we keep it going on. Che avete appena ascoltato si intitolava The Last Generation featuring JJ, Gangsta Dog e DMC. Era il brano di DJ Yondel al secolo Jonathan Brookman. Conobbi Ioni perché ci dividemmo il mixer in svariate serate in diversi locali della città, e Ioni faceva anche da DJ al ritmo, oltre a possedere uno studio di registrazione in quello che era il ghetto della squallida città dove DMC e tutti i suoi amici vivevano. Inutile dire che per tutti costoro Jonathan Brookman era esattamente il ponte verso il sogno di poter produrre degli album, di poter fare fortuna con la musica, di poter raggiungere quelli che erano soltanto dei sogni assolutamente inapplicabili ad una realtà fatta di compromessi e di difficoltà. La figura di Ioni ebbe un'importanza fondamentale, produsse peraltro un disco bellissimo al rapper albanese JJ Gangsta Dog, rapper dalle grandi qualità che ebbe addirittura dei passaggi sull'MTV albanese ed ebbe un briciolo di fama, persona che mentre si stava facendo produrre il secondo disco sempre da Jonathan Brookman ruppe con costui per ragioni meramente economiche, ma interprete assolutamente geniale di un modo di fare hip hop assolutamente sovversivo ed energizzante. Sotto di noi il brano Identity dal primo disco di JJ Gangsta Dog, uno dei protagonisti delle svariate serate che il ritmo, locale etnico per eccellenza del ghetto di cui stiamo parlando, ospitava. Le serate del ritmo si interruppero, vuoi perché durante una rissa si sfondò una vetrata, vuoi perché uno dei cantanti citati rubò ad un pusher della zona una ingente quantità di sostanza per poi farne un uso prettamente privato senza ridare più nulla. Fatto sta che i tempi in cui tutte queste persone di diverse etnie si ritrovavano insieme a far musica sembrava dovesse finire al più presto. DMC allora dormiva sui treni e Jonathan Brookman, il produttore, lo ospitava spesso e volentieri a casa sua insieme anche ad altre persone. Un luogo santo, un luogo dove poter fare musica, dove estraniarsi da una realtà difficile, un luogo dove venivano registrati un sacco di brani musicali, un sacco di tracce vocali, un sacco di idee nuove per quella che era l'etichetta di Yoni, la Grayman Records. Ma fatto sta che un giorno questo produttore non poté più ospitare DMC a casa sua come aveva fatto per lungo tempo. Lo buttò fuori casa, forse stanco delle innumerevoli peripezie in costui, e così DMC tornò a dormire sui treni e, lasciato Yoni, si avvicinò alla metropoli, lasciando negli studi della Grayman Records un sacco di tracce vocali. Dopo qualche anno chiesi a Jonathan Rupman il permesso di utilizzare il brano The Last Generation su di una compilation. Resomi conto che non c'era assolutamente nessun tipo di permesso concesso da DMC all'utilizzo della sua voce che avete appena sentito nel ritornello del brano precedente, decisi di contattare DMC e mi chiese: chissà che fine hanno fatto tutte le tracce vocali che ho lasciato a Yoni in quello storico periodo in cui sperimentavamo, creavamo canzoni nuove, facevamo anche un sacco di cose. Donne, alcol, divertimento, gioia sfrenata. AJJ Gangsta Dogs Ever 2003 featuring Green Man, DMC, Lil DB, MOB, MC Yoni, Dennis, Liv, Toki, G Sabashku, Thash Identity. Yo, peace, take this shit, bitches, it's for you, bitches. Yo, JJ Gangsta Dog, East Coast Albania, Albania, Albania, Albania, Albania. Facendomi un giro in internet scoprii che tutti i brani registrati in quello studio, o quasi tutti, erano stati salvati in SIAE. La SIAE ovviamente è off limits per un cantante senza il permesso di soggiorno come DMC, le cui tracce vocali vennero insomma usate per comporre brani di cui non avrebbe potuto assolutamente gestire in alcun modo i proventi. Pur comprendendo l'importanza di salvare un patrimonio artistico musicale che altrimenti sarebbe stato destinato probabilmente alla scomparsa, non ho mai capito perché vendere un prodotto fatto da tre persone quando i proventi alla fine se li deve intascare uno soltanto di questi, e soprattutto non ho mai capito perché farlo in segreto attraverso internet ed attraverso un sito non particolarmente nobile, www.cnimusic.it, catalogo Blonde Records, dove potete acquistare al prezzo di 11 euro il disco di Seifa MCs, The Beginning. Pur comprendendo l'importanza di farsi un pochino furbi anche nel mondo della musica, non ho mai capito sinceramente perché gli artisti interessati, DMC e Omar, non avessero mai saputo dell'esistenza della loro voce in vendita online. Ma nonostante tutta questa merda e anche tutta questa particolarità, sta a voi decidere da che parte stare. DMC nel frattempo era già andato su un treno direzione Milano. To be seen evermore. Pretty sure the power lives in us all to stay awake. Yo, I feel like they diss us, disrespect us. Who make this world what it is? Us, who broke all the rules that we set us. So it take every one of us to change. What you want at the hand, the name, the bloody fam in this game. But keep it real and don't be ashamed. Respect the order, treat them the same. Think about the payback before you act. Dead or ending like that we want that. We blessed to breathe. Just do your best and succeed. Won't let yourself fall. We pass the walls. All this life wasted. All the joy there on it. All the bad ended. More grave we will dig. More dead we will bury. I'm the hurry. Make my heart bleeding. So let it be. No mercy for those greedy. The blood thirsty. For the best of humanity. I'll give this hell a better place to live. Not face the same as an enemy. For the sake of the Lord who died for our sin. Let's raise the stand. So our friend will come with ease. Celebrating the return from war. In your name there won't be fear anymore. For it means to be a sign for us all to run away, run away, run away. Celebrating the return from war. Peace and justice to be seen evermore. To ensure the power lives in us all to stay awake. Yo, you got the power of taking, taking. Who got the power of giving, giving? Who got the power of taking, taking? Who got the power of giving, giving? Who got the power of taking, taking? Who got the power of giving, giving? Yo, we're gonna kill the creation of God in the name of God. She's the lost battle, coming with an empty bottle. You can't bring kids in this world when here nobody feel like they belong. All these people come here all along, people when it spread so strong. Blessed by what they live on. Destroying the world of God by our own way of living. We got the power of taking, taking, and giving, giving, giving, giving. Justice. Capitolo 4, DMC a Milano. Ok frères et sœurs, prions le Seigneur. Tout est éphémère sur terre. Chaque jour d'autres naissent, chaque jour d'autres meurent. Je voudrais savoir pourquoi je vis et pourquoi je dois mourir. Hey, négro, négro, je veux une réponse. À quoi ça sert de vivre si je dois mourir? Pourquoi dois-je souffrir si je dois mourir? Mais la vie est comme une scène de théâtre, une scène de théâtre pleine de désastres, où chacun vient jouer son rôle et puis s'envole. Mesdames, excusez-moi un peu de calme. J'ai beaucoup d'estime et de passion pour les femmes. Ne restez pas assises et à faire des amalgames. La vie du rappeur n'est pas une compilation de drames. Les rappeurs, dealers, hold-upers. C'est une erreur d'avoir une vie de malfaiteur. Je voulais m'y taire, mais mon cœur vibre de peur. Et tôt ou tard, je serai victime de ce prédateur. Mes vrais rappeurs, excusez-moi pour mes erreurs. Je suis sincère, c'était des actes involontaires. Mes frères et sœurs, DMC, il nostro cantante, arrivò dunque a Milano, dove conobbe Cashman e la Grizzly Productions Extreme Entertainment, che si prodigava a produrre un sacco di musica hip hop, reggae, nata dalla black culture ma fatta da milanesi doc. Attraverso Grizzly Entertainment, DMC produsse il suo disco Bon Vieux Temps, che ci stiamo ascoltando in questa trasmissione radiofonica chiamata The Last Beat Show. E attraverso di loro riuscì a raggiungere un obiettivo artistico senza precedenti. Cantò infatti al Leoncavallo di Milano di spalla insieme a Extreme Entertainment, niente poco di meno che ad Alpha Blondy. Il sogno di una vita sembrava ad un passo, sembrava poter essere raggiunto. DMC che cantava prima dell'icona reggae Alpha Blondy in una città enorme come Milano. Grazie ovviamente anche al lavoro di Grizzly, più precisamente Extreme Entertainment. La gente balza quando nella danza c'è Gamba dell'Elca, Extreme Entertainment. Precario, perennemente in cerca di un salario. Precario, 1100 modi per sbarcare il lunario. Musica ribelle, lirica libera, vibrazione ritmica per dire le mie te. Musica ribelle, lirica libera, si sei. Poter dire quello che penso senza temere l'inibizione di chi è sempre pronto a criticare, a giudicare, di chi vuole comandare, di chi ha il potere. Vorrei essere libero di esprimere ogni mia sensazione, non aver paura di cercare un senso, una motivazione per ribellarmi alle catene che regolano l'azione e dare ai miei fratelli una parte di ogni mia emozione. Liberati dalla soggezione che c'è in te, spezza le catene che ti frenano, perché lo sai che questa è la tua vita e non la puoi perdere. Sei spezza le catene che ti frenano, perché lo sai che questa è la tua vita e non la puoi perdere. Sei Ui, vai, gridalo se vuoi, staci una tetina come in un carro di buoi. Fuggio, finisci a sbagliati sono i tuoi eroi. Tutto questa cade sai controlli siamo noi. Tutti i nostri dischi belli mescolati, ben mixati, ben calibrati. Siamo gli selezionati, i più pregiati per i più affezionati. Oh, lo senti che c'è qui, pezzi originali che ti danno la PC. Metti indietro il disco e fai partire su RD. Che poi batte gamba, manda mai che MC. Ti metto ogni tipo e poi ci do che ci do. Accade di tutto quando esplode il flow. Può accadere pure che si inneschi lo show. Imbalza nei ritmi come a basketball. Tutti i rimastrici sono belli pompati. Tutti i loro segnali sono benvenuti. Senza sosta balla non sono tutti sudati. Caricati dall'orecchio e scatenati. Ti mettiamo il disco proprio chi tocca a voi. Non chiederci nulla, lascia il compito a noi. Basta che tu muovi il culo camminando fui. Fui, fui, e poi poco più che poi. Camminando fui, fui, sento il fuoco che fai. Io mi galvanizzo quando tu più me ne dai. Camminando fui, fui, sì una mano ci l'hai. Tira la mano all'aria, detto ci pensiamo noi. Camminando fui, fui, sento il fuoco che fai. Io mi galvanizzo quando tu più me ne dai. Camminando fui, fui, sì una mano ci l'hai. Via, via, via, fascista e polizia. Uno per uno noi vi spazzeremo via. Via, via, via, fascista e polizia. Rebel resiste contro la polizia. Via, via, via, fascista e polizia. Uno per uno noi vi spazzeremo via. Via, via, via, fascista e polizia. Rebel resiste contro la polizia. Beppe Rebel, ancora una volta. Su questo ritmo, su questo suono di rivolta. Contro l'indifferenza della gente seduta a guardare. Contro politici di merda che continuano a governare. Loro sbirri sempre pronti a sparare, incarcerare i compagni che come me non smetteranno di lottare. Sbirri merda, andate a lavorare. Sbirri merda, con voi non ho niente da spartire. Via, via, via, fascista e polizia. Uno per uno noi vi spazzeremo via. Via, via, via, fascista e polizia. Rebel resiste contro la polizia. Via, via, via, fascista e polizia. Uno per uno noi vi spazzeremo via. Via, via, via, fascista e polizia. Rebel resiste contro la polizia. Coco prosto, precario per un po', che magari a 50 anni un lavoro troverò. Coco pro, questo è quello che ti do. Se non ti accontenti ora, presto ti rimpiazzerò. Coco prosto, precario per un po', che magari a 50 anni un lavoro troverò. Coco pro, questo è quello che ti do. Se non ti accontenti ora, presto ti rimpiazzerò. In Italia c'è un problema, si chiama precarietà. Se un domani avrò un futuro, certo il giovane non sa. Prova coi concorsi se hai una buona volontà. Che tanto vinci solo se ti raccomanda papà. Prendi la tua laurea dopo aver studiato come un ossesso. Sì però adesso cerchi il tuo lavoro e ti accorgi di qualche difetto. Sei precario lo stesso. Coco prosto, precario per un po', che magari a 50 anni un lavoro troverò. Coco pro, questo è quello che ti do. Se non ti accontenti ora, presto ti rimpiazzerò. Coco prosto, precario per un po', che magari a 50 anni un lavoro troverò. Coco pro, questo è quello che ti do. Se non ti accontenti ora, presto ti rimpiazzerò. Precario, perennemente in cerca di un salario. Precario, 1100 modi per sbarcare il lunario. Precario, perennemente in cerca di un salario. Precario, 1100 modi per sbarcare il lunario. Coco prosto, precario per un po', che magari a 50 anni un lavoro troverò. Coco pro, questo è quello che ti do. Se non ti accontenti ora, presto ti rimpiazzerò. Coco prosto, precario per un po'. Stream Entertainment. Grizzly Production Extreme Entertainment. In uscita il nuovo disco di Gamba the Lank, che con Cashman formava l'ossatura di questo progetto milanese, al tempo in cui DMC collaborava con loro. Capitolo 5, la mega cazzata. Purtroppo ogni storia, anche la storia più bella, è destinata ad avere una fine. Fu così che un giorno il nostro prode DMC, afflitto da un sacco di problemi nella bianca Milano da bere, non riusciva a sbarcare il lunario e aveva numerosi ed impellenti necessità e problematiche economiche. non trovò di meglio costui che andare nello studio di Cashman e appropriarsi indebitamente di ben 3 Mac, 3 computer che si intascò prima di scappare e lasciare almeno momentaneamente la compagnia di Gamba dell'Hank, di Cashman, della Grizzly Production e dell'Extreme Entertainment con cui aveva vissuto così tanti bei momenti. Questa fu la cazzata più grande della carriera di DMC. Poco importa che, afflitto dal rimorso e dal senso di colpa, tornò e restituì il maltolto sotto forma di altri computer, nonostante la coscienza gli impose di riparare almeno in parte al danno fatto, e nonostante la cleptomania sia una brutta malattia, una malattia inferiore soltanto alla povertà estrema, ovviamente non fu più possibile per lui collaborare come prima nella città di Milano. Ma allora DMC si rigenerò scoprendo l'amore. Capitolo 6. L'amore. Love, love, yeah, love, baby. L'amour, l'amour, l'amour. DMC dans la partie. Et c'est parti pour une autre partie. Je voudrais que tu sois à moi. À moi, à moi. Je voudrais que tu sois à moi. S'il te plaît, t'en vas pas. Je voudrais que tu sois à moi. À moi, à moi. Je voudrais que tu me comprennes. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je voudrais que tu sois à moi. Baby, je suis fou de toi. Ottenuto dunque il perdono da Cashman e da Extreme Entertainment, DMC volse comunque altrove il suo sguardo. E il numero fu veramente di alta scuola. Frequentando uno di quei corsi finanziati da Formatemp per la formazione professionale per immigrati extracomunitari, quei corsi che poi promettono tanto in fatto di lavoro ma che in realtà non danno mai un cazzo, frequentando uno di questi corsi fece innamorare di sé l'insegnante che gli insegnò molte più cose di quelle per cui era pagata a fare. Fu così che DMC costruì famiglia e, diventando padre di bambino cittadino italiano, ottenne finalmente quello che tutte le persone che vengono dall'Africa in cerca di fortuna in Italia tanto vogliono, ossia il permesso di soggiorno. E così, grazie all'amore, DMC salvò la sua vita. Grazie all'amore ottenne il tanto agognato benestare dello Stato italiano per poter finalmente costruirsi una vita migliore qui sul suolo del bel paese. Devons nous unir pour construire le monde de demain, pour nos enfants de demain, afin qu'ils ne trouvent pas de mauvais exemples sur leur chemin, leur chemin, leur chemin. Con un permesso di soggiorno, un cittadino nato in Costa d'Avorio ma residente legalmente a questo punto in Italia non può più avere nessun tipo di foglio di via, non può più essere sbattuto di nuovo nel paese d'origine. Quindi, con tanta pace per le forze dell'ordine che ingiustamente provarono più e più volte ad espellerlo dall'Italia, DMC diventò praticamente cittadino italiano e come tale provò di nuovo a cantare in giro per i locali in una squallida provincia che ormai non poteva più fare a meno di lui. Need love, love, love. Capitolo 7. Le canzoni con Last Beach Studio. Purtroppo nella provincia italiana ci sono sempre dei produttori pronti ad approfittare di te, soprattutto se hai una bella voce e se hai tante idee da proporre in chiave pop, in chiave hip hop, in chiave reggae. Fu così che Last Beach Studio provò a sfruttare questo grandissimo cantante ivoriano DMC, producendo con lui un piccolo disco con parecchi brani nuovi. Inoltre il famigerato Last Beach Studio provò ad organizzare numerosi live per DMC per cercare di fargli risalire la china. Nonostante questo, il tentativo di sfruttamento da parte di terzi non andava molto giù al nostro amato cantante. Così, nonostante una serie di live organizzati e preparati con il fine di arricchirsi personale da parte di queste persone, tra gli altri, oltre al già citato Last Beach Studio, anche il Conte Max, DMC non si piegò ai loro dettami, ai loro voleri. Perché cantare per zero lire quando i soldi se li intascano gli altri? Così, preso da senso di giustizia, di autodifesa, tirò fuori la vecchia cleptomania e per ogni produttore senza scrupoli che provò ad arricchirsi sulla sua pelle, trovò la sorpresina giusta. Ricordo una volta ad una festa di compleanno organizzata dal prode Conte Max, piena di fighetti, di gente con soldi, DMC venne fatto cantare a calci nel sedere praticamente, contro la sua voglia, contro la sua coscienza soprattutto. Cantò ubriaco marcio, insomma. E non cantò esattamente così come tutti si aspettavano, e fu per questo biasimato di non saper cantare bene. Fu così che DMC prese i telefonini di tutti gli stronzi che volevano farlo cantare e scappò, non per farne chissà che, ma semplicemente per punire un tentativo di usurpazione delle sue doti canore. Nonostante ciò, con Last Beach Studio, DMC produsse delle canzoni, tra cui quella che ci andiamo ad ascoltare. Sì, ma allora, comodo, come va? È abbastanza bene. Benissimo. Beh, oggi che cazzo ci combiniamo? Non lo so, a fumare è finito tutto. Infatti figa, c'è la gorilla sulla spalla, non c'è un cazzo da fumare. Perché è una giornata, proprio buona giornata, ragazzi. Giornata del cazzo, ragazzi, ma infatti ci facciamo un paio di beatbox e va. Ah, raga, è così che va a me, c'è che sa a me. Bon Dieu, bon Dieu, moi je sais que t'as fait de ton mieux, bon Dieu, dis, bon Dieu, bon Dieu, moi je sais que t'as fait de ton mieux, bon Dieu, l'être humain est de nature sauvage, bon Dieu, l'être humain est de nature sauvage, bon Dieu, bon Dieu. Moi je sais que t'as fait de ton mieux, bon Dieu. L'être humain est de nature sauvage, bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Oh, bon Dieu. Moi je sais que t'as fait de ton mieux, bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Questa era la V, la V avec DMC. Attualmente DMC collabora ancora con Cashman e produce ancora brani nuovi, nella speranza di poter trovare anche nella squalida provincia in cui risiede dei produttori adatti a farne qualcuno, a farne qualcosa. Nel frattempo non smette di cantare in piccoli locali e tiene a bada il suo dolce bambino. Ma non ci dimentichiamo forse di qualcuno? Che fine avrà fatto quel produttore israeliano che tanto ha fatto per DMC e che ancora produce un sacco di musica? Capitolo 8. Che fine ha fatto quel produttore israeliano? Il produttore israeliano Jonathan Ruchman non smise certo di fare musica e si trasferì dal ghetto in cui viveva in una specie di casa vicino ad un rigagnolo, vicino allo studio dove lavora per registrare numerosi artisti anche di fama internazionale, tra gli altri persino Morris Albert. Quindi la produzione musicale come il lavoro effettivo vero e proprio, accompagnata dalla produzione artistica di numerosi brani propri per cercare di sfondare nel mercato musicale anche in proprio e non solo producendo altra gente. Quindi Jonathan Ruchman, DJ, produttore e anche organizzatore di eventi con Stregatto Eventi, progetto condiviso con Olga Banoncini, artista visual. I progetti musicali di Jonathan Ruchman portano il nome di DJ Yondel come DJ e soprattutto di Yud Key, progetto nato con Koki Salinas, altro musicista di Tel Aviv, con cui Yoni condivise anche il progetto Yud Key Zula. Produce nel 2008 per Two Delicious Recordings The Mercurial Flash EP. Per Shaboom Records remixano la traccia Wow del gruppo francese Washing Majaz. Il loro remix viene scelto da CD Pool per la selezione di remix del mese di luglio 2008 e raggiunge la posizione numero 62 nella classifica del portale Electro DJDownload.com. Yud Key producono altre due uscite per Filthbox Records, vincono il Producers Contest del portale GroundZeroProjects.com e il loro brano Black Dragon viene pubblicato in Ground Zero Records. Inoltre Yud Key sono finalisti del Franz Ferdinand Remix Contest con il loro brano Ulysses. Nel 2009 firmano per l'etichetta MODA Music Fashion per il singolo Never Tamed. Questo dunque è il successo del progetto Yud Key di Jonathan Ruchman e Koki Salinas, amici di vecchia data che nella musica provarono a sfondare e ad ottenere tutto quel successo che il cantante DMC presentato quest'oggi non ha potuto ottenere. Ma sorge un dubbio, ma c'entra forse il Mossad in tutto questo?